vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 3 marzo, il sole in regione è sorto alle 6.41 e tramonterà alle 18.03. Domenica ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Miccoli e Armando Mucchino. I titoli. Il movimento agrituristico, dopo i mesi terribili del Covid, si sta riorganizzando anche in Friuli Venezia Giulia e prepara nuovi traguardi di qualità. La cucina anche nelle case contadine era il momento aggregante della famiglia, anche perché d'inverno era uno dei pochi spazi caldi della casa. La singolare storia della certosa di Parigi e il suo ruolo svolto nella conservazione della varietà di melo. Il vino naturale da anni al centro di una disputa sulla sua definizione e realtà. La tecnica della vasocottura versatile e sicura nella rubrica della conservazione dei cibi. Il ranuncolo, un fiore semplice ma di incomparabile bellezza nello spazio che dedichiamo alla floricoltura. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Qual è lo stato di salute dell'agriturismo in Friuli Venezia Giulia? Dopo la tempesta del Covid ci si sta organizzando, o meglio riorganizzando. Ne parliamo con Vanessa Orlando, che è la segretaria di Terra Nostra per Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Diciamo che lo stato di salute degli agriturismi in Friuli Venezia Giulia è buono ed è positivo, perché comunque il periodo tremendo del Covid ha portato anche a quello che si può dire uno sviluppo e a un fermento, diciamo, di crescita, perché l'accoglienza in campagna ha avuto un grande appeal e sempre di più le persone scelgono di passare del tempo nelle strutture agrituristiche. Prima ci diceva che l'agriturismo non è solo campagna, ma non è solo dormire, non è solo mangiare. Cos'è? Ci teniamo appunto a precisare che appunto l'agriturismo, come attività di connessione all'agricoltura, è anche escursioni, è anche attività didattiche, è anche corsi di cucina, corsi di degustazione, è arte, cultura, è vita in campagna a 360 gradi. Parliamo di collina, mare, montagna, il Friuli Venezia Giulia ha gli agriturismi sparsi su tutto il territorio con un sacco di attività, oltre al cibo e all'enogastronomia locale e chiaramente a un ottimo servizio di ospitalità. Come Terra Nostra state avviando, anzi avete già avviato una serie di incontri, di approfondimenti, di cosa si tratta? Sì, ci teniamo a fare appunto un percorso di formazione con le aziende agrituristiche che fanno parte di Terra Nostra e Campagna Amica per la loro crescita professionale e anche per appunto stare dietro ai nuovi trend, al nuovo modo di fare accoglienza. Quindi noi abbiamo impostato una serie di lezioni da qui a fine anno, che poi potranno essere ripetute nel tempo, dove affrontiamo i vari temi, dalle lezioni di cucina per imparare a usare gli ingredienti a chilometro zero al meglio, a come proporre una struttura agrituristica a livello proprio di accoglienza, quindi come arredare, come mantenere la tradizione anche nell'innovazione, come cucinare in modo innovativo, quindi parliamo anche di cucina vegan e gluten free, parliamo di quello che è il marketing agroalimentare, il marketing e la promozione delle proprie aziende, quindi attraverseremo un sacco di argomenti da qui a fine anno insieme alle nostre aziende. La crisi dell'agricoltura, che questi giorni è scoppiata in maniera proprio prepotente in Italia, come si riverbera sull'agriturismo? L'agriturismo è uno sbocco, è una fonte di reddito che ormai da anni, da quando appunto ormai da decenni la legge dell'agriturismo ha permesso all'agricoltore di fare anche altro, non solo di produrre prodotti primari, ma anche di offrirli, di cucinarli e di ospitare le persone nelle proprie attività. Il ragionamento importante è da fare appunto il valore del lavoro dell'agricoltura, che bisogna sempre attenzionarlo e dobbiamo sempre fare in modo che l'agricoltore lavori anche per un reddito, chiaramente non può lavorare senza, diciamo, fare anche una sorta di business. L'agriturismo rappresenta uno sbocco economico importante per le aziende agricole, molte aziende agricole che nel tempo hanno scelto di avviare l'attività connessa, come anche la vendita diretta o all'attività didattica in agricoltura, le trasformazioni aziendali hanno permesso, diciamo, alle aziende un attimo più evolute di riuscire, diciamo, a respirare. Chi volesse saperne un po' di più su queste vostre iniziative, dove si può rivolgere? Può rivolgersi tranquillamente nei nostri uffici, noi siamo sparsi su tutto il territorio, abbiamo un sito internet, abbiamo dei profili social, Campagna Amica, Coldiretti FVG, Coldiretti Provinciali, quindi può trovare assolutamente in modo facile la consulenza che desidera. Nelle case contadine la cucina era il fulcro della casa, quasi un sinonimo di famiglia, come ci dice Angelo Floramo. La cucina è il luogo in cui per secoli si concentra tutta la vita della casa contadina. Anzi, ne è quasi la metafora perfetta. Il fulcro di quella millenaria sapienza che, attorno al fuoco, organizza l'intera esistenza della famiglia, ben si intende quella allargata, i cui legami parentali si fanno estesi, intrecciati, alle volte improbabili, anche violenti e spesso dolorosi, soffocanti, al di là di ogni possibile idealizzazione, dunque anche per questo ben lontana dal nucleo sempre più povero al quale oggi siamo abituati, sia per il funesto calo demografico che per le esigenze di una vita spesso troppo esigente, capace di condannare a inediti scenari di solitudine non meno feroci di quanto non fosse la cultura patriarcale. Ma tant'è, loco e foco, così veniva indicata l'abitazione già nei documenti del 400 frulano. Come se le due cose si richiamassero fra loro in maniera biunivoca, giustificandosi a vicenda. Spazio prevalentemente, ma non esclusivamente femminile, offriva i suoi tepori durante tutti i lunghi mesi di una stagione fredda che non accennava a finire mai e che fin dalle prime brume di novembre resisteva fino allo scioglimento delle nevi, dunque a marzo inoltrato, anche dopo, a seconda della geografia. Spazio simbolico, quasi alchemico, era preposto alla preparazione e alla consumazione dei pasti, che in molti casi, vista l'indigenza profonda delle genti contadine, si riducevano ad un pasto solo. Pignatte, pentole, mestoli erano a portata di mano, appesi al bordo del camino o alle pareti. Nelle casse panche, che fungevano anche da seduta, si trovava tutto il resto. Dentro al grande paiolo, appeso alla catena, sobbollivano zuppe e minestre, addensate quando andava bene, con i cereali che la tradizione e il ciclo stagionale metteva a disposizione. In prevalenza si trattava di orzo e di farro. I fagioli garantivano l'apporto proteico, le patate l'amido e dunque gli zuccheri. Il brodo di carne, carne bianca ovviamente, era riservato agli ammalati o alle partorienti. Più farmaco ricostituente che cibo, veniva considerato una pietanza, ovvero qualche cosa che si somministrava per quel senso di pietas che va rivolto a chi ne ha più bisogno. Se andava bene, le ossa del maiale regalavano un po' di sapore. Gli uomini che sostenevano il duro lavoro nei campi potevano contare anche sul vino, più un alimento che una bevanda, capace di conferire quelle calorie che altrove non si potevano ricavare. Per tutti gli altri doveva bastare la salute. Le mele e la rivoluzione francese è l'accattivante titolo del contributo all'argomento che ci dà oggi il professor Raffaele Testolini. Oggi voglio raccontare la singolare storia della certosa di Parigi per il ruolo svolto nella conservazione e nella diffusione delle varietà di melo e per l'insipienza degli amministratori, del tempo ovviamente, non parliamo di quelli di oggi. La certosa di Parigi occupava gli attuali terreni dei Jardins del Luxembourg, attualmente di proprietà del Senato francese. Verso il 1650, un francese appassionato di piante da frutto si ritira nella certosa di Parigi. Il priore gli affida l'allestimento su 40 ettari di proprietà del convento di un frutteto con annesso vivaio che serva per i bisogni del convento e per la vendita di piante. Con il tempo il vivaio acquista fama e nel 1712 il convento registra la vendita di oltre 14.000 piante da frutto, una enormità per quei tempi. Nel secolo successivo, grazie alla rete dei monasteri cistercensi, vengono raccolte in collezioni le migliori varietà di piante da frutto. La collezione diventa un riferimento per specialisti e amatori di tutto il mondo. La rivoluzione francese mette fine nel 1789 a questa bella storia. I beni del monastero vengono nazionalizzati, il comune di Parigi acquista dallo Stato i terreni della Certosa e vende le piante. Si salva una piccola collezione che viene donata dai frati all'antico Jardin des Plantes, attuale sede del Museo di Storia Naturale. Qualche anno dopo il governo francese si rende conto del disastro e ordina di ricostituire la collezione. A partire dal 1804 vengono reintrodotti 80.000 alberi, ma le traversie della collezione non finiscono. Nel 1814, 10 anni dopo, il nuovo ministro dell'interno ritiene la collezione inutile e taglia i fondi. In balia di diversi ministeri, durante le successive amministrazioni, nel 1828 l'abbazia perde una parte dei terreni ceduti alla facoltà di medicina e nel 1866 riceve un altro duro colpo a causa della ristrutturazione dell'area. A niente servono 12.000 firme raccolte dai parigini per salvare il giardino. La collezione è ridotta a 90 varietà di mele e 60 di pere, ma finalmente le viene riconosciuto il valore storico. Privilegiando le varietà di mele, i giardinieri, con passione certosina, l'aggettivo è quanto mai appropriato, ricostruiscono per quanto possibile la collezione, introducendo nuovamente molte varietà perdute. La collezione conta oggi alcune centinaia di varietà di melo. La frutta raccolta ogni anno viene messa a disposizione di mostre frutticole. Ai parigini che organizzano feste familiari nel parco è permesso fare uso della frutta colta dagli alberi. Viene istituita una scuola pratica e gratuita di frutticoltura per amatori che continua ininterrottamente anche ai nostri giorni assieme ad una scuola di apicoltura. C'è grande confusione sul concetto di vino naturale. Per spiegarlo meglio, oggi Vladimiro Tulisso affronta questo tema per la rubrica dei sommelier. È tempo che il nostro viaggio nel mondo dell'enologia affronti il tema del vino naturale. Questa definizione è sempre più oggetto di interesse da parte del mercato, spesso dei clienti più giovani. Il mondo dei consumatori di vino è infatti cambiato e siamo in presenza sempre più di una vera rivoluzione nel mondo del bere. Non si beve più distrattamente, considerando il vino come uno degli alimenti che si trovano sulle nostre tavole, ma si degusta, pretendendo di conoscere del vino le annate, i territori, le tecniche di produzione. Si vogliono scoprire le storie dei produttori, se ne prediligono alcuni, ci si allontana da altri. Per avere qualche elemento in più che ci aiuti a comprendere questo fenomeno, parto dalla definizione di vino naturale. Già queste due parole sono fonte di aspri confronti tra chi ritiene che il vino non possa essere definito naturale, essendo sempre conseguenza dell'intervento dell'essere umano, e chi per naturale intende riferirsi a un'uva coltivata in vigna senza l'utilizzo di sostanze di sintesi e successivamente un vino arrivato in bottiglia senza aver incontrato additivi lungo il suo percorso. L'unica concessione ammessa dai naturalisti è una piccola aggiunta di solfiti al momento dell'imbottigliamento. È dai primi anni 2000 che alcuni vignaioli si stanno aggregando in associazioni per alimentare un movimento che arrivi alla scrittura di carte di qualità, disciplinari interni e simili. Si tratta del tentativo di mettere ordine in una categoria di vini che il mercato ricerca con curiosità e attenzione, perché ritenuti prodotti in modo sano, con pochissimi interventi, e arrivati da vigneti coltivati con metodi biologici. Si tratta di una discussione vivace cui per ora non parteciperemo, limitandoci a sostenere che il termine vino naturale non ha ancora un valore legale. Non ci sono leggi né disciplinari che aiutino il consumatore a codificarlo. Diciamo che ogni viticoltore può autonomamente definirsi naturale, lasciando alla propria etica la responsabilità di esserlo per davvero. Oggi per la rubrica della conservazione Michela Urbano ci parla della tecnica della vasocottura, versatile e sicura. La vasocottura prevede la cottura di carne, pesce, creme e dolci all'interno di vasetti di vetro, chiusi con un coperchio ermetico. Il sottovuoto che si crea in fase di cottura garantisce la conservazione del cibo per parecchi giorni, se conservato a temperatura controllata. Il principale vantaggio nell'usare questa tecnica di cottura è che gli aromi e i succhi intrappolati nel vasetto si intensificano in cottura, permettendo di ridurre l'apporto di sale e grassi aggiunti. Un altro vantaggio considerevole è che con questo metodo possiamo gestire in tutta sicurezza più pasti, ottimizzando tempo e denaro. È fondamentale utilizzare vasetti in vetro a tenuta ermetica con caratteristiche differenti a seconda del metodo che scegliamo per realizzare la vasocottura. Il più antico ma meno pratico è quello di immergere vasetti tappati in una pentola piena d'acqua, raggiungere il punto di ebollizione e cucinare seguendo il tempo indicato in ricetta. Un altro metodo consiste nell'immergere i vasetti in un bagnomaria all'interno di una teglia e cuocere nel forno tradizionale. Nel forno a vapore si può procedere semplicemente sfruttando questa funzione. Il metodo più fantasioso è senza dubbio quello che suggerisce la cottura all'interno della lavastoviglie. I vasetti ben sigillati e accomodati accanto ai piatti da lavare sfrutterebbero così le temperature del lavaggio, ottimizzando la resa in un unico elettrodomestico. La vasocottura in microonde è sicuramente quella più pratica da realizzare. Basterà usare i vasetti idonei e in pochissimi minuti il cibo sarà cotto e pastorizzato. Qualunque metodo si voglia utilizzare, sarà opportuno rispettare alcune semplici regole. Aspettare sempre alcuni minuti prima di aprire il vasetto, perché il cibo all'interno prosegue la cottura ben oltre i tempi della ricetta a causa delle alte temperature. È importante prestare attenzione all'effetto sottovuoto e al vapore che potrebbe fuoriuscire all'improvviso. La vasocottura è particolarmente indicata per preparare salse, sughi, minestre e zuppette di mare, tutti i prodotti con una buona percentuale di liquidi all'interno. Per preparazioni più asciutte consiglio di porzionare gli ingredienti tenendo conto dei rispettivi tempi di cottura. Attenzione, tutti gli alimenti sono idonei alla vasocottura tranne i funghi perché sprigionano tossine in cottura. Perché Alessandro Squizzato intitola il suo contributo di oggi con ranuncoli e rane? Il ranuncolo asiatico, Ranunculus asiaticus, è una pianta bulbosa perenne, appartenente alla famiglia delle ranunculacee. I suoi fiori circolari di grandi dimensioni, che lontanamente ricordano una rosa, si trovano su steli alti circa 25-30 cm. Hanno corolle doppie dai petali fitti e i colori vanno dal giallo all'arancio, al rosso, al rosa e al bianco. Ma se vogliamo qualcosa di veramente speciale, ci sono anche in versione bicolore e sfumati. Li troviamo in vendita a fine inverno, inizio primavera, dal nostro fioraio di fiducia, come Reciso, per dei bellissimi bouquet da mettere in casa in acqua. Nello stesso periodo li possiamo comprare anche in vaso, per decorare i nostri balconi o giardini, permettendoci di creare vasi, cassette e ciotole primaverili dal pronto effetto. In altri mesi dell'anno, più precisamente in autunno, troveremo in vendita il bulbo del ranuncolo. In questo ultimo caso bisognerà posizionare il tubero con le punte rivolte verso il basso, sotto 3-4 cm di terriccio, assicurandoci di proteggerlo dai colpi di freddo intensi. Utilizzate sempre del terriccio per piante da fiore di buona qualità. Il ranuncolo è una pianta dall'alto fabbisogno idrico. Il terreno deve essere sempre umido, ma è molto importante assicurarsi che non si formino ristagni d'acqua permanenti, che farebbero marcire le radici. Durante tutto il ciclo di crescita e fioritura è importante somministrare del concime per piante da fiore per il suo ottimale sviluppo. Per ottenere belle fioriture esponiamo in pieno sole la nostra pianta, spostandola preferibilmente in un luogo ombreggiato nelle calde e afose giornate estive. Se viene coltivato in vaso, scegliete una posizione in mezz'ombra. Rimuovete costantemente i fiori appassiti e le foglie ingiallite. Questa operazione stimola la pianta a formare nuovi steli e boccioli. Il nome ranuncolo significa piccola rana. Secondo le prime testimonianze, questo fiore si trovava spontaneamente in zone paludose, l'ambiente ideale delle rane. E con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi in diminuzione venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole del Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 18,20 e 18,40 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,50 e 20 euro, l'orzo peso specifico 62,65 tra 18,20 e 18,70 e la soia tra 42,20 e 42,70. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 11,60 euro il quintale e la soia di 12,30. Scarse le contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine, con prezzi in forte ribasso, soprattutto le verdure. L'insalata gentile, la lattuga Trocadero e i finocchi vengono quotati da 1 a 1,40 euro al chilo, IVA esclusa. La scalora riccia e gli spinaci tra 2,80 e 3 euro, i cavoli tra 1 e 1,30 e il radicchio rosso tondo tra 1 e 1,30. Quello di Treviso precoce tra 1,60 e 2 euro, i carciofi violetti tra 0,80 e 1 euro, i kiwi tra 2 e 3 euro, le arance tra 1 e 2 euro, i mandarini da 1,30 e 1,60, le fragole italiane da 3,50 a 5 euro al chilo. Nel settore della pesca le condizioni meteo sono precarie e l'attività è proficua, i prezzi sono stabili. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono da 16 a 30 euro al chilo IVA esclusa, le orate da 6 a 20, le sogliole da 8 a 25, le canoce da 5 a 15, le passere da 11 a 15, i latterini da 8 a 11. Mazzancolle da 18 a 26, le cappesante da 19 a 22, i calamari da 18 a 23, i moscardini o folpi da 6 a 17. Con il previsore dell'ARPA Francesco Sioni diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. La settimana che si è appena chiusa è stata l'insegna del tempo uggioso, con cielo in prevalenza nuvoloso. Lunedì 26 febbraio è stata una giornata con cielo nuvoloso, che ha preceduto una perturbazione atlantica che tra il 27 e il 28 ha portato a precipitazioni intense a ovest, specie sulle prealpi carniche e in particolare nella zona di Piancavallo. La quota neve, inizialmente sui 1000 metri circa, si è alzata ben presto durante il corso della giornata, oltre i 1500 metri. I primi due giorni di marzo hanno visto ancora cielo da nuvoloso coperto, con piogge sparse intermittenti sulla regione. Per quanto riguarda le temperature medie, queste sono state sopra la norma del periodo per tutta la settimana. La temperatura media del mare continua a rimanere record, con un valore misurato di ben 12 gradi. Passando ora alle previsioni per la settimana entrante, la giornata di oggi si concluderà con delle precipitazioni moderate, che nella notte fino a domani mattina interesseranno in particolare la fascia occidentale della regione, tra il Pordenonese e le Prealpi Carniche, con quota neve attorno ai 1200-1500 metri circa. Tra il pomeriggio di lunedì e quello di martedì sarà possibile una pausa dalle precipitazioni, con schiarite sulla regione, specie verso la costa. E sulla pianura le massime potranno raggiungere anche i 18-20 gradi circa. Mercoledì una nuova depressione interesserà probabilmente la regione, determinando afflussi di aria umida da sud-est, portando nuove precipitazioni moderate e diffuse. A partire da giovedì e fino a sabato invece una rimonta anticiclonica dovrebbe garantire condizioni di stabilità e tempo migliore sulla regione. Per quanto riguarda le temperature medie per la settimana, su tutta la regione rimarremo ancora sopra la media climatologica del periodo. Vista tuttavia la complessità della situazione meteorologica a larga scala, la tendenza per ora rimane ancora molto incerta e perciò raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Se insolente soffle la buere, e donge la primavera, ovvero se la bora soffia insolente, la primavera è vicina. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitanecampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.